L'omicidio di Latina dell'operaio agricolo indiano Satnam Singh ha riportato all'attenzione dell'opinione pubblica il tema del grave sfruttamento lavorativo cui sono sottoposti in Italia migliaia di lavoratrici e di lavoratori immigrati, mentre ha trovato ennesima conferma la barbarie dell'agire padronale. La tragedia dell'agro pontino ha avuto ribalta mediatica per le dinamiche che l'hanno contraddistinta e la presenza di testimoni, al contrario di omicidi silenziosi di operai e operaie invisibili che chissà in che numero hanno sporcato le campagne e le fabbriche in questo paese. Satnam non era vittima di caporalato, non era arrivato in Italia in qualche barcone attraversando il Mediterraneo. Quel caporalato, sistema arcaico e moderno che la fa da padrone negli accampamenti informali di migranti, da Borgo Mezzanone a Foggia fino a Rosarno in Calabria, un vero e proprio sistema di servizio per padroni e lavoratrici e lavoratori, reclutamento, trasporto, accoglienza, che imperversa nei vuoti lasciato dallo Stato, non più circoscrivibile al settore agricolo e che non può nemmeno più contare sul cinico alibi delle produzioni povere che porta ad abbattere a cascata diritti e salari. Caporalato e sfruttamento sono stati scoperti nelle campagne del Barolo come nella Val di Non. C'è poco da stupirsi, perché verso questa sistematizzazione organica di precarizzazione estrema e impoverimento salariale tendono da decenni le regole del mercato del lavoro. E in questo scenario la condizione della forza lavoro migrante è il crocevia sul quale convergono quello che è stato definito pluralismo formale e informale normativo, che determina subordinazione e gravi forme di sfruttamento. Con a far da cornice la legge Bossi-Fini, che è strumento perfetto per negare cittadinanza e consegnare migliaia di persone nelle fauci di un padronato sempre più legittimato nell'agire dal potere politico. Ma segnali di conflitto vi sono, a partire dagli scioperi dei migranti e delle migranti, ai quali va riconosciuta piena autonomia, soggettività politica e sociale fuori da circoli, bandiere e apparati. Di questo vogliamo parlare in questa puntata di Ponte Radio con il nostro ospite Marco Mizzolo. Buon ascolto a tutte e a tutti. Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quaro, sono Salvatore e ben ritrovati a Ponte Radio, il progetto di comunicazione nato agli inizi di quest'anno grazie alla collaborazione con Radio Onda Rossa, Radio Wombat Firenze e Radio Eustachio Verona. Nell'approfondimento di oggi con me c'è Lello, che saluto. Ciao Lello. Ciao, buongiorno. E in questa puntata di Ponte Radio andremo ad analizzare come nasce quel circolo vizioso tra caporalato, sfruttamento dei e delle braccianti e diritti delle persone migranti e le agromafie. E per farlo, in questa prima parte abbiamo come ospite Marco Mizzolo. Marco è un sociologo, giornalista, ricercatore Eurispes, presidente della cooperativa Immigrazione di Tempi Moderni. Si occupa di studi e ricerche sui servizi sociali, sulle migrazioni e sulle criminalità organizzate, autore di saggi e ricerche nazionali ed internazionali, in particolare sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura dei lavoratori e delle lavoratrici straniere, collabora e ha collaborato con l'Università La Sapienza di Roma, la Ca' Foscari di Venezia e con l'Università di Pisa e con diverse redazioni di quotidiani e riviste italiane. Ha pubblicato numerosi articoli scientifici e saggi, tra cui La quinta mafia, Sotto padrone, uomini, donne e caporali nell'agromafia italiana e recentemente Per motivi di giustizia. Dopo questa breve introduzione saluto Marco. Ciao Marco. Buongiorno, ciao a tutti e a tutti. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, è un piacere. E partirei con l'omicidio di Satnam Singh. Di Satnam abbiamo conosciuto la terribile vicenda perché c'erano dei testimoni e in questo caso la sua compagna di vita. Dopo la denuncia e la ricostruzione dei fatti abbiamo assistito, diciamo, al solito balletto istituzionale, all'attenzione mediatica che un caso così eclatante richiama, salvo ovviamente poi spegnersi piano piano, ormai quasi più nessuno ne parla. Ma tutti sappiamo che ogni giorno migliaia di lavoratori stranieri, regolari e non, sono costretti a subire condizioni di lavoro spesso di vita inumane, pur contribuendo al successo, diciamo, di quel famoso Made in Italy agroalimentare. Si può parlare di ipocrisia e soprattutto quanti Satnam Singh ci sono stati senza che nessuno abbia visto o denunciato? Guarda, grazie per questa bella domanda. Parto dalla seconda. Quanti ce ne sono stati? Ce ne sono stati un'infinità prima e ce ne sono stati moltissimi dopo. Ecco, la cosa che a me scuote è che Satnam Singh risulta in qualche modo una eccezione. Qualcosa che è capitato perché un sistema che funziona ha prodotto semplicemente un cortocircuito. È come una lampadina che a un certo punto si fulmina, ma basta sostituire la lampadina e l'impianto elettrico resta in funzione. Non è così. Prima di Satnam Singh ci sono state centinaia di donne e uomini, a volte anche bambini, che hanno subito gravi incidenti sul lavoro nelle nostre campagne dal sud al nord del paese nel corso degli anni. Alcuni di questi sono stati raccontati in rapporti istituzionali, accademici, in libri. Io penso per esempio ad Alessandro Leogrande, che su questo ha fatto delle pubblicazioni straordinarie e le ha raccontate prima di tutto. Ma penso anche, ritornando al Pontino, a tutto ciò che è capitato prima di Satnam in quel territorio e che mi hanno visto testimone di donne, di uomini che sono stati violentati, altri che sono stati che sono spariti, cioè dire probabilmente morti e nascosti e buttati chissà dove, altri che si sono suicidati a causa delle condizioni di emarginazione e di sfruttamento, altri che hanno subito incidenti altrettanto gravi, che forse non sono arrivati alla morte, ma che pure hanno subito l'onda del nascondimento per volontà di padroni. Perché il tema, badate, è questo. Il caporalato è una forma di sfruttamento, ma lo sfruttamento è un soggetto apicale, che racchiude, comprende tutte le sue forme, che è il padrone, che è cosa diversa dall'imprenditore, cioè un soggetto che decide per sua volontà di sfruttare. Non lo fa perché lo richiede il mercato, lo fa perché lui vuole ottenere denaro illecito attraverso lo sfruttamento da impiegare nelle sue forme più proprie. E il caso del padrone di Satnam lo rende evidente. Quella non era un'azienda in difficoltà, ma aveva deciso lo stesso di impiegare uomini e donne senza regolare permesso di soggiorno e contratto allo scopo di sfruttamento. E quindi in questo senso noi dobbiamo dire, facciamo attenzione, non possiamo accendere un faro sul caso e poi dimenticarcene. Dopo Satnam, appena un mese dopo, un altro lavoratore indiano nelle campagne Pontine è morto, 55 anni, alle 4 del pomeriggio, lavorava ad un impianto di irrigazione. La combinazione caldo letale e età e lavoro ne hanno determinato la morte. Ne hanno parlato in cinque in questo paese. Era trascorso appena un mese dal caso di Satnam. C'è una profonda ipocrisia che secondo me coincide con una corresponsabilità. Questo paese ha deciso di battersi il petto, ma di stare dalla parte del padrone. Di asciugarsi la fronte quando ci sono le tragedie, ci sono 3 morti sul lavoro ogni giorno in questo paese, ma poi di stare dalla parte dei padroni dicendo che questi ragazzi che muoiono sono invasori, vengono per sostituirci etnicamente o sono carico residuale. Ecco, questa linea del potere è una linea anche razzista che umilia la nostra democrazia e la dignità delle persone. Mi ricollego a quello che dicevi, Marco. Tu, tra l'altro, nelle tue ricerche hai anche evidenziato come molti braccianti sono costretti a ricorrere a uso di anfetamine, di insomma, droghe di vario tipo, antidolorifici, proprio per sostenere quei ritmi che non sono sostenibili, soprattutto in estate con il caldo, l'umidità. E come dicevi, poi si raccontano i casi, come dire, quelli più eclatanti di cronaca, quella, insomma, dove la cronaca ci può anche costruire poi quelle narrazioni che piacciono al pubblico. Però tu dicevi dei 1.000 morti, no, che ci sono ogni anno, quelli certificati almeno dall'INAIL sul lavoro. C'è questa stima fatta da Medici per l'Africa nel 2019 che parlava di 1.500 braccianti extracomunitari morti nei 6 anni addietro proprio a causa delle condizioni di lavoro e di vita molto spesso, perché poi voglio dire, ci sono patologie che subentrano per varie ragioni, ovviamente, se si vive nei ghetti, se si lavora con quei ritmi e quant'altro. noi che saremmo un po' antichi, c'è una questione, come dicevi, mai superata del rapporto capitale-lavoro, per cui si è scelto che per il profitto, per il capitale, sacrificare delle vite umane è, come dire, una cosa normale. Sì, io penso che il rapporto capitale-lavoro sia un rapporto di subordinazione, implicitamente di sfruttamento, e oggi più avanzato rispetto a ieri. Più avanzato perché sofisticato, più avanzato anche perché tutte le reazioni e le forme organizzate che fino a 30 anni fa erano anche in sé anticapitaliste, in una forma anche critica, sono entrate in una crisi profonda. Facciamo un esempio. Dopo la morte di Satrammo non c'è stata una risposta unitaria. Ci sono state risposte sparpagliate anche dal punto di vista sindacale. E questo è un elemento da considerare. Ci sono state narrazioni tossiche. C'è stata la risposta di quel sistema padronale che è stato sintetizzato nelle parole del padre, anche lui imprenditore, dell'imprenditore che del padrone che sfruttava Satrammo, e che ha detto pubblicamente la colpa di quella morte di Satnam stesso, perché è stato incauto. Cioè questa torsione delle responsabilità, ma anche del conflitto sociale, per cui è colpa tua se hai un incidente perché sei stato incauto e io sono libero, anche quando ti porto davanti a casa tua con il braccio spezzato e ti abbandono lì, determinando di fatto la tua morte. È la cifra esatta di quello che io definisco il capitalismo padronale, cioè quella forma di capitalismo che ha oggi elevato al vertice la figura del padrone, alla base gli schiavi, gli sfruttati e le sfruttate, e come tu o voi correttamente dicevate, questo non attiene soltanto al mondo del lavoro, ma attiene alla società, perché questi padroni non vogliono soltanto essere ricchi, vogliono essere potenti. E vogliono essere riconosciuti nella loro potenza e nella loro ricchezza dal punto di vista sociale e politico. Cioè, questi soggetti hanno una capacità di entrare in vario modo, anche nella politica e nella società, da soggetti vincenti. E questo è l'elemento della tossicità più grave della nostra democrazia. Questi soggetti nell'agro pontino hanno sviluppato filiere del potere che oggi arrivano sino in Parlamento e addirittura nel governo. In provincia di Latina, nella scorsa legislatura, è stata eletta Giorgia Meloni, che sul tema non ha mai fatto né detto nulla. In provincia di Latina, in questa legislatura, è stata eletta l'attuale presidente della commissione antimafia, Chiara Colosimo, che è rimasta in silenzio. Della provincia di Latina è l'onorevole Claudio Di Rigon, che oggi siede al Ministero delle Finanze, che sul tema non ha mai detto niente, ed è il padre delle riforme della Lega. Ex Ma non segretario UGL anche, no? ex segretario UGL, che per l'appunto c'è tutta questa tradizione di quel territorio, è il senatore Claudio Fazzone. Parliamo di soggetti politici che derivano da quel territorio, che hanno sempre espresso delle posizioni, come dire, sviluppiste, ma mai messo in discussione ciò che accadeva in quel territorio, anche quando le cose erano particolarmente note. Non che a sinistra vada meglio, perché io non ho ascoltato, come dire, grandi critiche, grandi proposte anche alternative rispetto a ciò che sta accadendo. Però c'è una filiera del potere che oggi comanda e che sul tema ha enormi, dal mio punto di vista, enormi difficoltà. Che cosa ha detto il ministro dell'Agricoltura di così forte sul tema? Io non ricordo delle grandi prese di posizione. E il ministro dell'Interno, che cosa ha detto? Perché dinanzi alla tragedia enorme di Cutro, lì si è spostato il Consiglio dei Ministri a Latina, a 60 km dal Parlamento italiano, non è venuto nessuno. Perché dalla provincia di Latina, feudo, anche di natura fascista, deriva quella filiera di consenso e di potere e di economia che permette a un pezzo del potere di confermare se stesso. Una settimana prima dell'incidente di Satnam, io firmo un'inchiesta con Sandro Ruotolo, una settimana prima, e denunciamo su Il Domani l'obbligo imposto da alcuni padroni ai braccianti indiani, una volta entrati dentro l'azienda, di fermarsi dinanzi al busto, all'effigie di Mussolini e salutarlo, o chinando la testa o facendo il saluto romano. Una forma di indottrinamento che non è semplicemente, come dire, una bravata come alcuni hanno detto, ma è una forma di indottrinamento che serve a dire al lavoratore: tu qui sei schiavo, noi siamo padroni in casa nostra, questa è la nostra dottrina, o così o olio di ricino, che significa a volte per l'appunto anche la morte. Quindi è un quadro ideologico che oggi ispira la filiera del potere. Marco, ma è possibile, possiamo soprattutto dire, che i fenomeni migratori che in Italia sono man mano aumentate dalla metà degli anni Ottanta ad oggi, sì, hanno offerto a questo sistema vizioso, come dicevo prima, le vittime perfette? Assolutamente sì, ma perché questo sistema ha deciso di trasformare quegli uomini e quelle donne in vittime, ha preso i più fragili e li ha trasformati in meccanismi per la propria autoconferma e per la propria crescita anche di carattere economico. Io ne sono assolutamente convinto, ma non solo. Io ricordo che le persone variamente sfruttate nel nostro sistema primario sono circa 450.000, ma è una cifra secondo me bassa. Comunque, consideriamola, 450.000. L'80% sono immigrati, il 20% sono italiani. Ma bisogna uscire dall'idea per cui quel 20% è stato determinato dall'arrivo dei migranti. Quell'80% di migranti e quel 20% di italiani sono il frutto di un'organizzazione del mercato che è prettamente ipercapitalista, di forma neoliberista, che ha deciso di aggredire la fragilità, l'emarginazione e sulle spalle degli emarginati costruire filiere di potere e di denaro e di approfittamento. Infatti, Marco, c'è il caporalato, è fenomeno antico, riguardava. Sì. I braccianti italiani. C'è un libro di Allò che è stato deputato di Rifondazione Comunista e brindisino, ha indagato, ha studiato, anche ha fatto attività politica sul territorio proprio sul tema dello sfruttamento del caporalato, che definiva il caporalato in realtà tarda modernità, visto come poi è evoluta la legislazione sul mercato del lavoro, sui diritti. Cioè, come dire, il mercato del lavoro si è avvicinato al modello del caporalato, del salario di Sì. piazza, dello sfruttamento, di una competizione, insomma, senza alcuna responsabilità sociale né per le imprese né nemmeno per lo Stato, diciamo, per chi dovrebbe. Sì, io penso due cose che sono sostanzialmente d'accordo, ma una è un errore che stiamo facendo e l'errore è quello di immaginare che il contrasto al caporalato, che oggi è sistemico, anzi lo è sempre stato sistemico, se da una parte era sistemico per un sistema, per un modello che era quello del feudo, che era comunque in sé capitalistico, oggi lo è per un capitalismo che è globalizzato anche nella sua forma di produzione primaria. Questo lo stiamo chiudendo in una vertenza che è soltanto di carattere giudiziario. Il caporalato non lo possiamo affrontare solo come vertenza giudiziaria, come processo giudiziario. Non possiamo Assolutamente. dirci soddisfatti nel momento in cui portiamo soltanto lavoratori o lavoratrici o documenti all'attenzione dell'autorità giudiziaria. Bisogna ricostruire una vertenzialità sociale che diventa anche politica. Da questo punto di vista abbiamo fatto dei passi indietro, abbiamo assunto come alibi quello del siccome c'è una legge, facciamo funzionare la legge e quindi diamo questo genere di impegno soltanto a degli organi esterni rispetto a quella che è la nostra responsabilità collettiva. E badate che questo che cosa produce? Il disinnesco del conflitto. Il conflitto è una forma di emancipazione fondamentale. I lavoratori e le lavoratrici di qualunque nazionalità hanno la necessità di riorganizzarsi anche in via autonoma rispetto ai nostri modelli organizzativi tradizionali e di costruire vertenzialità, scendere in piazza. Io ho portato e ho occupato oltre 15 aziende agricole con loro. Non avevamo le bandiere delle nostre organizzazioni, ma loro hanno fatto questo percorso di rivendicazione che è parte del loro processo di emancipazione. Invece l'idea per cui ne prendo 10, e questo vale anche per i sindacati di oggi, e la loro liberazione avviene perché li porto dall'ufficiale dei carabinieri e firmano una denuncia, è un limite enorme che rischia di essere disinnescato facilmente dal sistema, perché i nostri processi, per esempio, durano 8 anni. Vai a dire a una persona che ti presenta la necessità di una denuncia e che aspetta la sua liberazione 3 giorni dopo, devi attendere 8 anni e forse avrai giustizia. Facciamo attenzione a questo elemento. La seconda cosa, noi continuiamo a parlare di caporalato, io lo comprendo e figuriamoci, sono a favore, ma parallelamente dobbiamo iniziare a parlare di padronato. Il caporalato è anche questa una forma di delega al migrante, di una responsabilità che spetta soltanto agli altri. Il caporale molto spesso oggi è un migrante. Puntando gli occhi soltanto sul caporale, che è colui che recluta e sfrutta in questo senso, liberiamo dalle sue responsabilità il padrone. Parliamo di caporalato, ma parliamo anche di padronato. Satnam non era vittima di un caporale, ma di un padrone. Non aveva un caporale, aveva un padrone, così tanti altri. E allora da questo punto di vista dobbiamo iniziare a mettere in discussione il modello sociale, politico ed economico oggi vigente nelle nostre campagne, non soltanto perché di caporalato e di padronato è, come dire, caratterizzato il nostro mercato del lavoro. Pensate all'edilizia, pensiamo ai rider, no, alla gig economy, pensiamo al padronato, alla cantieristica navale, alla logistica, eccetera, eccetera, eccetera. In questo senso, guarda, mi ci è capitato di leggere una riflessione, uno studio di una ricercatrice indipendente, mi pare Lucilla Salvia, no? Come proponeva proprio che la necessità di una riconcettualizzazione del tema caporalato e sfruttamento lavorativo, tenendoli separati, è come dire, uscendo dal paradigma della moderna schiavitù, no? Perché poi lo sfruttamento agisce sulle fragilità, sui bisogni delle persone ed è un fenomeno estesissimo, come dicevi, a tutti i settori, a prescindere poi dalle forme di intermediazione, diciamo. Sì. Sì, sì, è così. Si sta costruendo un po' una lettura stereotipata, sulla quale anche il potere si sta riorganizzando. Torno a ripetere, non possiamo immaginare, io cito sempre Ferrarotti, che è una persona alla quale che io stimo molto, lui parla di ottimismo normativo come male caratteristico di questo paese. Cioè l'idea per cui un fenomeno complesso, che ha molte matrici e un'organizzazione complessa, può essere risolto semplicemente da una norma. Ma questa norma, che è anche una forma, ripeto, di deresponsabilizzazione del sistema, nasce sempre anche da interessi, da una lettura del fenomeno, che è troppo soltanto giudiziario-investigativa. Per me la vera forma di emancipazione è la rivolta, è la ribellione. Il conflitto, è, come sempre, che è conflitto. Nel corso degli ultimi 40 anni, io cito Ferraioli, il conflitto ha subito un'inversione a U. Non è più ascendente, io che non ho contro chi ha, rubando a me ciò che è il mio diritto avere, ma io che non ho, che me la prendo con l'ultimo arrivato perché potrebbe prendere ciò che pochissimo ormai mi rimane. Questa torsione del conflitto è il grande segreto attraverso il quale il capitalismo e il capitale ha svolto un ruolo che oggi è super primario, cioè dominante. E questo è un male gravissimo della nostra società, che però, badate, nelle forme del conflitto si sta, secondo me, riarticolando in una forma specifica. Io ricordo che le più grandi e le più importanti contestazioni in tal senso degli ultimi 20 anni sono state prodotte dai migranti in agricoltura. Da Nardò a Rosarno, prima ancora Castelvolturno, nel Pontino. Nel Pontino, il più grande sciopero di braccianti gravemente sfruttati è del 18 aprile 2016. Lo abbiamo fatto altre due volte, ci sono state altre manifestazioni, le marce per la pace. C'è una conflittualità che nel momento in cui viene liberata dalla nostra visione e liberata anche dall'idea per cui devi fare semplicemente la denuncia, si manifesta e produce conflitto. E io credo che su questo bisognerebbe lavorare molto. Marco, io invece ritorno un attimo a quello che dicevi prima, a parlare di padronato. Negli ultimi anni un fenomeno, diciamo, del caporalato si pensava che era prettamente del meridione. Invece si è scoperti, soprattutto negli ultimi anni, che sfruttamento, caporalato e padronato ci sono anche in altre zone d'Italia, nel settentrione, nella Val di Non, come nei vigneti del Barolo. Sì, sì. Assolutamente, questa della ghettizzazione del tema dello sfruttamento del padronato e del caporalato solo in alcune aree del meridione rispondeva a un grande pregiudizio di questo paese, che era anche antimeridionalista, cioè dire: riconosciamo il meridione come area arretrata sotto tanti punti di vista e solo lì individuiamo il caporalato, perché è un'espressione, come dire, ancestrale del nostro, addirittura per alcuni, precapitalistica. In realtà non è così, ma lo sapevamo da tempo. In realtà, se ci pensiamo bene, già la questione Pontina rompe questa cosa, no? Pontina è a 60-80 km dal Parlamento italiano, ma nel corso degli anni abbiamo, ed sono state scoperte forme gravi di sfruttamento, di emarginazione, addirittura i ghetti in Piemonte, nell'Astigiano. Il Piemonte produce uno dei prodotti interni lordo più importanti d'Europa, eppure lì c'era il ghetto, l'emarginazione, lo sfruttamento, il caporalato e il padronato. Nell'Odigiano, appena poche settimane fa, è stata individuata una sola azienda con oltre 1.000 braccianti impiegati vittime di grave sfruttamento e disagio abitativo, cioè dire abitavano e dormivano su materassi alla buona. In Veneto la produzione di vino di eccellenza è in alcuni casi prodotto attraverso il grave sfruttamento. Sono stato negli Stati Uniti, ho trovato bottiglie di vino del miglior di grande qualità italiana vendute a $800 l'una e prodotte però in aziende del Bresciano dove lo sfruttamento era sistemico. Ma c'è un'altra lettura che dobbiamo superare. Non è soltanto italiano, cioè non è soltanto del meridione italiano e di tutta Italia, ma non è neanche soltanto italiano, perché caporalato e grave sfruttamento ce l'abbiamo in Germania, in Francia, in Inghilterra, in Spagna, in Portogallo, in Grecia, negli Stati Uniti, in Cina, cioè è una forma molto avanzata, ormai pienamente capitalistica. Un esempio banale. Dalla Spagna, durante la stagione della raccolta delle fragole, prodotto di eccellenza di quel territorio, partono aerei che arrivano in Marocco, prendono donne marocchine, le riportano, guardate che è un'organizzazione transnazionale pienamente capitalistica, perché peraltro è manageriale, le riportano in Spagna, le impiegano durante la stagione della raccolta e queste vengono gravemente sfruttate e violentate sessualmente. E poi riportate in Marocco. È lo sfruttamento prêt-à-porter. Mi servi, ti porto, ti sfrutto, ti trasformo in cosa, ti uso anche dal punto di vista sessuale, ti riporto a casa tua. Allora, tutto questo va messo in discussione non soltanto nell'ambito strettamente nazionale, ma anche internazionale, ed è un po' una parte del mio impegno quello di andare anche in altri paesi per sollecitare una riflessione critica e forte anche da questo punto di vista. Marco, tu parlavi, no, dell'ottimismo normativo, come lo definisce, ma venendo poi appunto alle norme, nel 2016 c'è questa nuova legge, ministro Martina, di contrasto al caporalato, al lavoro nero, allo sfruttamento, che non a caso funziona soprattutto sull'aspetto repressivo giudiziario. Leggevo, ci sono circa 90 attività di procure in Italia a partire da quella norma. La debolezza invece sul versante appunto più sociale, l'accoglienza, gli strumenti di mediazione, intermediazione lavorativa, culturale e quant'altro. A fare da cornice da tutto però c'è una legge sulla cittadinanza, che è la Bossi-Fini, che forse dovrebbe essere il primo elemento di aggressione, perché diciamo è quella che fornisce eserciti di riserva, no? Per usare una terminologia anche questa passata a padronato, è così o no? È così, ma io dico due cose su questo. C'è la necessità di mettere in discussione, non è mai stato fatto nel corso degli ultimi 23 anni, da nessuno, la Bossi-Fini. Certo. Io ho seguito nel 2012 un trafficante di esseri umani in India e già allora denunciai il fatto che la Bossi-Fini era propedeutica a un sistema di tratta internazionale a scopo di sfruttamento lavorativo che era paralegale, perché la Bossi-Fini legittimava e consentiva il reclutamento illecito di carattere internazionale attraverso il decreto flussi in una forma ufficiale. Cioè il migrante indiano che arriva a lavorare come bracciante nel Pontino ed è vittima di tratta non arriva con una barca in Italia, arriva con un aereo, supera tutti i passaggi e i controlli doganali, eppure è vittima di tratta, e questo lo consente la Bossi-Fini. Però su un altro punto, secondo me, dobbiamo attirare l'attenzione. La Bossi-Fini è fondamentale cancellarla, ma non basta. Perché la Bossi-Fini non è la responsabile, era la responsabile del carattere di vulnerabilità della persona, del migrante, ma non dell'intero pacchetto dello sfruttamento. Lo sfruttamento del lavoro deriva dall'elemento della precarietà che è stato inserito nel mercato del lavoro come sistema strutturale. Quindi insieme alla Bossi-Fini bisogna aggredire la precarietà nel mercato del lavoro. E quindi tutti quei sistemi normativi che nel corso degli ultimi 30 anni hanno determinato forme di vulnerabilità che riguardano immigrati ed italiani. Certo. Perché altrimenti ne guardiamo soltanto una parte. Quindi Bossi-Fini, l'istituto della cittadinanza, l'elemento della precarietà va combattuto e poi tutta una riforma radicale del sistema di accoglienza. Marco, ma invece secondo te quanto in questo sistema la criminalità organizzata italiana e non, che ruolo gioca in queste vicende? Gioca un ruolo importante, preponderante, però non esclusivo. Ecco, la criminalità organizzata gioca con un sistema normativo ed economico in una sorta di alleanza. È un errore immaginare che tutto lo sfruttamento derivi solo dalla presenza delle mafie. Ok? Le mafie giocano un ruolo, peraltro lo giocano, per esempio, le mafie italiane, in una forma più avanzata rispetto a quello che generalmente si tiene. Cioè non è tanto il loro impiego finalizzato all'attività di reclutamento, ma di trasformazione del prodotto. Cioè chi recluta è molto spesso l'espressione di una criminalità, a volte anche migrante, ma non è direttamente legato all'organizzazione mafiosa italiana. L'organizzazione mafiosa italiana la troviamo nella gestione dell'impresa, nel sistema di trasformazione, nella logistica, nei grandi mercati ortofrutticoli, nel mercato internazionale, quindi ad un livello manageriale più elevato. È la bassa criminalità che sta nell'attività di reclutamento e di impiego. Perché? Perché il caporalato, dobbiamo rendercene conto, è facilmente individuabile. Basta vedere i campi agricoli, basta andare nei cosiddetti ghetti, tu li vedi, i vigili urbani potrebbero vederli e intervenire come autorità preposta anche a questo. E il sistema mafioso, che è in sé organizzato, non è scemo, dice: ma perché io devo rischiare di essere individuato, andare sotto processo e addirittura prevedere la chiusura della mia azienda attraverso un'attività di reclutamento con un mio iscritto che sta dentro il campo? Ci mando l'immigrato, produco il pomodoro e io poi gestisco il pomodoro. C'è un bel libro che è stato scritto da Attilio Bolzoni, che è insomma il più importante giornalista d'inchiesta di mafia, che ha denunciato con un'inchiesta di alcuni anni fa una sorta di transito continuo del pomodoro pachino di Vittoria in Sicilia verso il mercato ortofrutticolo di Fondi, gestito dalle grandi organizzazioni mafiose, e questo camion che faceva la spola tra i due grandi mercati, gestiti, ripeto, dalle mafie, e ogni volta di questo viaggio quel prezzo del pomodoro si raddoppiava, con profitti illeciti che arrivavano nelle mani, ma non del piccolo commerciante o del lavoratore, ma ovviamente della stessa organizzazione mafiosa. Il mercato ortofrutticolo di Fondi è il quarto più grande d'Europa. Tutto il sistema della logistica, fino al processo alla Paganese, era in mano ad una sola società, la Paganese per l'appunto, che era gestita insieme dai Corleonesi, c'era il fratello di Totò Riina, Gaetano Riina, dai Casalesi con gli Schiavone e dall'Andrangheta di Reggio Calabria. Cioè le tre organizzazioni mafiose insieme dentro un'unica società che gestiva tutta la logistica del quarto mercato ortofrutticolo più grande d'Europa. Quei camion arrivavano a Francoforte, lasciavano gli ortaggi prodotti dallo sfruttamento dei braccianti indiani, tornavano apparentemente vuoti con nella pancia armi pesanti e droga. Allora comprendete che se immaginiamo che le mafie siano circoscritte come fenomeno agromafioso solo sul campo agricolo, bypassiamo tutto questo sistema molto alto e molto sofisticato che arriva a produrre circa 26 miliardi di euro di business, cioè quanto una finanziaria. Anche da questo punto di vista, uno sguardo solo giudiziario investigativo è un errore. Questo genere di lotta non appartiene soltanto alla DDA o alle grandi procure nazionali antimafia, è una lotta anche in questo caso, secondo me, di analisi e sociale in maniera determinante. Che richiederebbe anche interventi in questo caso come dire, di ricostruzione di norme e pesi nella filiera, sì. Perché poi spesso i piccoli, medio, anche grandi coltivatori che hanno estensioni di pomodoro giustificano, come dire, il ricorso di abbattere i costi del lavoro sfruttando, perché c'è questa piramide capovolta che premia di più chi fa intermediazione, chi trasforma, chi commercializza. Poi sì, è vero che è un alibi che non regge, ma si può intervenire anche su questa filiera in qualche modo. Si può, si deve, lo si è fatto in precedenza, però sono le stesse presunte vittime di questa filiera, cioè quei piccoli medi imprenditori che lo devono fare. Certo. A ognuno il proprio lavoro. Diciamo. Infatti non sentiamo mai le organizzazioni agricole porsi questo problema, per esempio, il dumping, diciamo così. La prima cosa è questo, cioè se vogliamo aggredire, allora non possiamo immaginare che la grande distribuzione possa riformare se stessa, perché assolutamente non andrebbe nella direzione. Non possiamo immaginare che il movimento dei braccianti dica non facciamo la lotta ai padroni, facciamola alla grande distribuzione, perché questo anche mi sembrerebbe un bypassare il problema principale. Certo. E allora perché le vittime di questo sistema non fanno un'azione sociale, politica, volta a dire grande distribuzione, non ti vendo più il mio prodotto, costruiamo filiere alternative, mentre restano vincolate alla grande distribuzione, per poi dire siamo costretti allo sfruttamento. Certo. Qui c'è una profonda ipocrisia. Seconda considerazione che io pongo ovunque, facciamo attenzione, perché la sola riforma della grande distribuzione rischia di produrre questo, un plusvalore determinato da una riforma dei prezzi e quindi dal riconoscimento del cosiddetto giusto prezzo, che però viene privatizzato, che viene privatizzato dal produttore, dall'imprenditore. Cioè se il mio prodotto passa da 100 a 120, quel 20 più non è che io poi lo vado a distribuire ai lavoratori, lo tengo per me, e quindi rischiamo di aumentare il profitto della piccola e media impresa o anche della grande impresa e non produrre la distribuzione, che significa peraltro il far combaciare monte ore di lavoro e giornate di lavoro con quanto previsto dal contratto di lavoro, che resterebbe lo sfruttamento a fronte di una maggiore ricchezza capitalizzata dal mondo dell'impresa. Per questo serve politica, un'altra politica che può determinarsi solo dall'azione vertenziale del mondo del lavoro. Marco, a me una cosa, per esempio, no, a proposito di organizzazioni criminali che speculano, diciamo, anche sulla post-produzione, qui da noi, in provincia di Foggia soprattutto, c'è da sempre il fenomeno delle false giornate di lavoro, no? o peggio, dell'accordo che si fa con i lavoratori sulle indennità di disoccupazioni, ti registro tot giornate e poi dividiamo. La cosa che a me fa impazzire in qualche modo è che l'INPS ha un algoritmo, che forse è anche abbastanza banale, che applica quei criteri, diciamo, di indici di che paragona la cultura, il tipo di cultura all'intensità lavorativa, sì, per svelare le false giornate. Non lo applica al contrario, quindi ci ritroviamo con terreni di 15 ettari di pomodori raccolti magari da 10 persone in 7 giornate. Cioè, sembra, come dire, evidente, palese, una non volontà di aggredire un fenomeno che sottrae anche ricchezza al paese in termini di contributi, di tasse e quant'altro. Assolutamente sì. Ma anche qui potremmo addentrarci anche nei dettagli, ma c'è un quadro generale. La mia domanda è questa: perché, lo dico in maniera molto, molto netta, per esempio il direttore generale dell'INPS dovrebbe fare quella riforma che noi auspichiamo nel momento in cui il presidente del Consiglio, il giorno inaugurale del suo governo, dichiara alla Camera: noi non disturberemo chi produce. Certo. E perché lo dovrebbe fare quel direttore generale nel momento in cui i responsabili degli organi investigativi dicono al nucleo di coloro che devono fare le ispezioni nel territorio: noi non disturberemo chi produce? Cioè, questa non è soltanto una rassicurazione in qualche modo politica data al mondo dell'impresa, ma è una linea politico-istituzionale che dice: voi che siete a me sottoposti in quanto istituzioni, l'INPS, l'INAIL, eccetera, eccetera, wow, sappiate che non è che dovete agire allo scopo di contrastare, perché il mondo dell'impresa deve essere lasciato libero di agire per come vuole. E quindi figuriamoci se poi diventa un tema di algoritmo, diventa un tema di politica. Perché l'ex ministro dell'interno Salvini, quando era ministro dell'Interno, il suo primo governo, quello rosso-verde, dice ad una festa di una categoria datoriale, la Coldiretti, in diretta nazionale, noi aboliremo la 199 perché dice esplicitamente ferma lo sviluppo di questo paese. Io da sociologo mi domando qual è l'idea di sviluppo? Qual è l'idea di sviluppo che caratterizza questo governo nel momento stesso in cui quel ministro il 2 giugno del 2018 dichiara per gli immigrati è finita la pacchia e quello stesso giorno un nostro connazionale a San Ferdinando punta il fucile dinanzi a tre ragazzi di origine maliana che stavano dentro una discarica per prendere materiali di scarto per la propria baracca, spara e uccide Soumaila Sakho. Certo. Io parlo, per andare su un livello che secondo me è interessante, non più di politica, ma riprendendo Achille Mbembe, straordinario sociologo, dice oggi siamo nella necropolitica, cioè di una politica che parla e determina condizioni di morte. Da quelle del Mediterraneo alla rotta balcanica al tema del lavoro, siamo nella necropolitica. È così. Infatti. Marco, scusami, tu hai citato la legge 199, che sta funzionando bene sul lato, diciamo, repressivo, però poco o nulla si è ottenuto in termini di collaborazione da parte delle imprese per quanto riguarda accoglienza, intermediazione. Quali sono, secondo te, i punti di forza, di debolezza e cosa si poteva fare di più e meglio? Il punto di forza di quella norma sono almeno due. Lo dico con cognizione non solo perché la studio da molto tempo, ma perché fui chiamato a dare un mio contributo in fase di dibattito parlamentare, proprio perché quella norma nasce dalla morte di Paola Clemente e dallo sciopero organizzato a Latina. Quali sono i punti di forza? In primis l'istituto del sequestro e della confisca dei beni del padrone, e badate che questa deriva per nostra stessa volontà, in particolar modo di Bruno Giordano, che è il magistrato che davvero ha dato un notevole contributo subito a questo, dalla legge Rognoni-La Torre. L'istituto del sequestro e della confisca nasce dall'idea per cui a quel sistema devi togliere il capitale. Non basta l'arresto. Esatto. Quindi quella norma... Che è quello che fa paura alle imprese, per cui chiedono... Esatto, e per questa stessa ragione Salvini dirà quella frena lo sviluppo, perché toglie il capitale al capitalista criminale e quindi questo incrina quel sistema. E la seconda cosa è che prevede l'arresto. Per la prima volta quella legge in Europa aggredisce anche non solo il capitale dello sfruttatore, ma lo sfruttatore stesso prevedendone l'arresto. Prima di quella legge, con la famosa legge che deriva dagli scioperi di Nardò prodotta da Ivan Sagnier, la norma anticaporalato aggrediva penalmente solo il caporale. Il caporale. Ma cioè il caporale, la sanzione amministrativa. Il caporale finiva sotto processo penale, sì. Veniva arrestato, ma veniva sostituito il giorno dopo da un altro caporale per volontà del padrone. E quindi in quel lavoro dicemmo non va soltanto arrestato il caporale, va arrestato il padrone e sequestrate l'azienda. E questo ha prodotto una rivoluzione. Considerate che quella legge è stata applicata alle società satellite di Armani. Sì. Cioè siamo arrivati all'espressione massima e più avanzata del capitalismo ben vestito, alla Fincantieri, alla Bartolini, cioè siamo arrivati a livelli estremamente alti. Che cosa non funziona è che quella legge prevede, per esempio, la rete del lavoro agricolo di qualità, che è la modalità attraverso la quale il sistema di produzione localmente definito va riformato. Perché non funziona la rete del lavoro agricolo di qualità? La rete del lavoro agricolo di qualità è un tavolo istituzionale dove siedono le istituzioni locali, prefettura, INPS, eccetera, i sindacati e le categorie datoriali. Ma ci si deve iscrivere. Certo. Le aziende non si iscrivono. Tutti dicono perché hanno paura. No, io credo che questa sia un'attività di boicottaggio. Sì, sì. Quindi, in provincia di Latina, su 6.000 aziende agricole, si sono iscritte nella rete del lavoro agricolo di qualità volto a evitare il caporalato e lo sfruttamento, se ne sono iscritti in 8 anni 200. Su 6.200. Significa che hai boicottato quel tavolo che non ha prodotto nulla e quella legge è stata per metà, come dire, disarticolata. E quindi ancora una volta andiamo solo sull'arresto. Quindi che cosa poteva essere fatto meglio? Io penso che qui bisognava fare una riflessione un po' più approfondita e prevedere una sorta di obbligo di iscrizione. Perché o partecipi e cambi questo sistema o noi restiamo in una dinamica che arriva alla violazione quotidiana e sistematica dei diritti umani. Perché anche questo è un punto fondamentale, permettetemi di sottolinearlo. Il tema dello sfruttamento non è soltanto un tema sindacale. Non riguarda soltanto, come dire, la dinamica del contratto. Satnam era vittima del decreto flussi, quindi della Bossi-Fini, viveva in condizioni di marginalità e di povertà, era sotto ricatto, gli è stato negato il diritto all'emersione, gli è stato negato il diritto alla salute, cioè tutti i temi centrali di una democrazia. Non era soltanto una questione di contratto di lavoro. Noi oggi abbiamo in Italia i working poor, gente che ha un contratto e che ha una cittadinanza italiana, ma che vive la povertà e lo sfruttamento. Quindi ancora una volta bisogna fare attenzione a non sviluppare una sorta di ipocrisia molto italiana, no? C'è un problema, lo diamo la responsabilità alla norma oppure alla magistratura oppure soltanto alla politica. No, assumiamoci la nostra responsabilità e cambiamo questo sistema che secondo me può essere cambiato soltanto attraverso un'altra politica. Ecco, questo è un altro errore che spesso facciamo. Diamo a quella stessa politica che ha prodotto gli ultimi 30 anni di disastro la responsabilità e l'impegno di cambiare i suoi stessi disastri. Io questo credo che sia un grande cortocircuito ipocrita che non ha senso. Marco, un'ultima domanda, poi ti liberiamo. Nel tuo ultimo libro, chiudiamo anche con una nota, diciamo, di ottimismo. Nel tuo ultimo libro, per motivi di giustizia, in quarta di copertina, io leggo: prima o poi lo schiavo si ribella e la sua coscienza urla. La schiavitù e lo sfruttamento sono destinati a fallire perché tra la loro ontologia e la loro traduzione empirica resta un lato in cui l'uomo rimane uomo e può agire, ribellandosi per riconquistare la propria dimensione, personalità e coscienza, siamo destinati a vincere. Tu citavi, no, che gli ultimi, diciamo, momenti di forte conflitto, di scioperi, sono legati alla condizione dei migranti di vita e di lavoro. Forse è anche questo che teme, no, la politica, questo protagonismo nuovo, perché poi sono giovani, sono, come dire, vivono condizioni di estrema indigenza rispetto a un'idea che avevano lasciando le loro terre di miglioramento della loro condizione. C'è una paura anche rispetto a questo, no? Sì, Saïed, straordinario sociologo algerino, poi naturalizzato francese, parlava di effetto specchio delle migrazioni. Le migrazioni hanno questa caratteristica, riflettono l'essenza del paese nel quale entrano e quindi noi, guardando le migrazioni, riflettiamo noi stessi e guardiamo noi stessi, noi facciamo paura a noi stessi in realtà, perché siamo profondamente ipocriti e tutto il nostro modello di benessere e di consumo è fondato sullo sfruttamento. Ed è vero, i migranti inoltre hanno uno sguardo che io definisco o laterale o meridiano, perché hanno una cultura che è diversa dalla nostra e quindi ci mettono in discussione, da qui c'è la grande paura. Quando io dicevo dobbiamo costruire con loro spazi di autonomia perché loro possano manifestare la loro essenza, cioè la loro punto di vista in maniera libera, senza l'indottrinamento nostro, che significa anche senza l'indottrinamento di un sindacalismo tradizionale. Facciamo attenzione, perché anche Anche quella. tipico di alcune organizzazioni, diciamo. Esatto, perché anche quella è una forma di colonialismo. Non sei tu che ti liberi, sono io che ti libero dicendoti la strada che devi fare e mi devi stare dietro, col cavolo. Le persone si liberano insieme, ma devono avere una capacità di sviluppo e anche di conflitto nei confronti nostri, che non siamo i buoni samaritani. E questo quindi innesca una dinamica di reazione conservativa anche a sinistra, anche nel mondo sindacale, che a volte si allinea con quella della peggiore destra, che abbiamo nel paese. Però io sono convinto di una cosa perché è la mia esperienza. Io sono accanto a decine di persone che sono passate dalla schiavitù ribellandosi alla libertà. E lo hanno fatto perché a un certo punto hanno riconquistato la coscienza di sé, che significa la coscienza di essere umani, non oggetti. L'errore del padronato sta in una sorta di involuzione antropologica. Il padrone ritiene che Satnam, può essere tradotto in un oggetto. E quindi quando si rompe quell'oggetto, buttato davanti casa. lo sfruttato o la sfruttata non è mai un oggetto, antropologicamente non può mai diventare un oggetto, è sempre un soggetto. E il soggetto può in qualunque modo ribellarsi, in qualunque momento ribellarsi. Magari quella persona non lo fa mai, non lo farà mai, ma ci sarà sempre un'altra persona che a un certo punto si ribellerà. Ieri ero con Balbir nelle campagne italiane, apre per motivi di giustizia Balbir. Balbir per 6 anni è stato ridotto a schiavitù a 2 chilometri dove abitava Satnam. Per 6 anni ha mangiato gli avanzi che il padrone buttava ai maiali e alle galline. Veniva pagato 50-150 euro al mese per lavorare 18 ore al giorno. Per 6 anni non ha avuto un giorno di ferie. Il padrone lo minacciava con una pistola puntata alla testa. Balbir a un certo punto, con un percorso anche metodologico costruito insieme, si è ribellato e ha cambiato la giurisprudenza italiana, perché il primo bracciante ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia rinnovabile e convertibile. Ha cambiato la giurisprudenza italiana. E allora, se Balbir, l'ultimo tra gli ultimi, quasi sull'orlo del suicidio, ha fatto questa rivoluzione e oggi cammina libero per le strade italiane, io penso è perché l'uomo è fondato su un elemento di libertà che è in conflitto con la natura capitalistica dello sfruttamento, che tende a ridurre alcuni uomini semplicemente a mezzo per il proprio profitto e il proprio potere. E su questo noi dobbiamo, secondo me, aggregarci. C'è bisogno appunto di intersecare lotte, e prendere anche esempio a volte. Assolutamente sì, assolutamente sì. Balbir per me è davvero straordinario, pensate che ha sul corpo i segni di quei 6 anni di schiavitù, ma quando è andato a chiedere lavoro al nuovo datore di lavoro gli ha chiesto subito 2 cose, gli ha detto: io sono Balbir. Guardate che io sono Balbir significa io sono uomo, io sono la mia storia, io sono la mia identità. Gli ha detto: voglio un contratto e mi devi garantire misure di sicurezza. Cioè significa ha preso una coscienza rivoluzionaria straordinaria. Il padrone gli ha detto: ti garantisco tutto, è la prima volta in 80 anni, perché quella è un'azienda storica, che mi viene chiesta una cosa del genere da un immigrato. Ma devo dire anche un'altra cosa. Il datore di lavoro precedente di Balbir non gli ha rinnovato il permesso di soggiorno, perché dopo che ha preso che Balbir era Balbir, lo ha considerato un pericolo, perché aveva preso coscienza. Allora vedete che anche da questo punto di vista noi veniamo messi in discussione da queste personalità che riflettono una parte della del nostro modo di essere. E questo è molto interessante. Sono i veri ribelli. Balbir è il vero ribelle, fa le rivoluzioni che noi non abbiamo più il coraggio. Marco, però è possibile che il sistema repressivo sta diventando sempre più punitivo proprio per difendersi da queste nuove... Assolutamente sì, non solo secondo me per difesa, ma per offesa, cioè a dire, non lo fa solo per autoconservazione, lo fa con una sorta di rivoluzione del potere, diciamo così, volta a costruire verticalità. I decreti Cutro o i decreti Caivano, ma anche molti altri, stanno ad indicare che il potere vuole essere al vertice, vuole essere sull'Everest, sull'Olimpo, tutti gli altri, attraverso questa sorta di clava punitiva, che è un ricorso panpenalistico straordinario, pesante, cioè dire, molto pesante. Cioè io non costruisco più percorsi sociali, ma ti mando in carcere a prescindere. Ecco, tutto questo significa ritorno al manganello attraverso l'esercizio del potere di governo. Il decreto Cutro è l'esempio classico. Il decreto Cutro nasce da quella famosa tragedia. Il ministro dell'interno dice alle donne superstiti che hanno visto i bambini morire, ma i loro bambini, è colpa vostra perché siete saliti su quelle barche con i bambini in braccio. Immaginate che cosa dice il potere, questa sorta di torsione della responsabilità. E il decreto Cutro, che dovrebbe in teoria, no, cercare di evitare quelle tragedie, cancella l'unico strumento normativo che prevedeva l'emersione dei lavoratori o delle persone immigrate irregolarmente soggiornanti verso la regolarità. Lo cancella, che è il permesso di soggiorno per motivi speciali. Cioè è stato punitivo in una forma più avanzata, non prende coscienza della tragedia, ma dice: voi siete il problema, vi teniamo una condizione di emarginazione, tenendo in vita l'istituto penale della reclusione degli immigrati privi del permesso di soggiorno. A voglia se c'è una iperproduzione panpenalistica. Riempiamo le carceri di coloro che consideriamo dissidenti. Marco, grazie. per aver portato la tua testimonianza in questo Ma grazie speciale a te. sul caporalato, padronato e diritti delle persone migranti. Grazie a Grazie voi, sono a veramente. disposizione. Grazie Marco, ciao. Grazie mille. Ciao Lello, sei stato bravo. Grazie. Ciao. Ciao Marco, buona giornata. Ciao. A voi, ciao. Ciao.